Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento è confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.